luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Frocio. Ma Finocchio. Beppe, sei impazzito? Ricchione. No. Checca. No, no, calma, calma. Culattone. No, ma che è? Bardassa. Ma smettila, basta, Beppe. Poi potremmo anche mettere, non so, Cupio. Ma no, non possiamo mettere nient'altro. Ne hai già dette fin troppe. Sta già arrivando. Cupio piemontese. Piemontese, tra l'altro, arriva dal latino cupidus, quindi lussurioso, bramoso. Sì, Buliccio. Buliccio. Po' più ligure, un po' più al pesto. È impazzito. Buson. Cos'è Buson? Buson? Cos'è? Buson? Non lo so, credo sia veneto, no. Però mi piace fare un po' francese. Stava imitando Buson, il vero. Recion, Recion, Recion anche se... Guarda, ci chiudono e ci ingabbiano, Beppe, se continui. Femmenel. Non ve ne siete accorti, ma ci hanno già chiuso alla seconda parola che ha detto, ragazzi. Scusate, hanno già chiuso la trasmissione. È già chiusa la trasmissione, è già finita, cioè non puoi iniziare con un elenco di insulti. Ma cosa sta avvenendo? Ma come no? Beppe? Cosa stai facendo? Ragazzi, scusatemi. Sì, io ho un sacco di amici gay, mi hanno detto che io posso dire queste cose. Ho chiesto a loro un elenco, me l'hanno dato e questo è l'elenco che mi hanno dato. Ma sono parole insultanti, non si possono dire. Cioè non è la proprietà transitiva. Ma io gli ho chiesto quali sono le parole insultanti che voi usate. Loro mi hanno dato un bel elenco e ho detto io vorrei dirle alla radio, mi piacerebbe dirle alla radio. Sì, ho capito Beppe, però perdonami, non è che se hai molti amici gay allora questo ti autorizza per proprietà transitiva a dire queste bestialità. Non funziona così. Ma no, ma stiamo scherzando, questo era solo un recap delle varie parole. Stiamo ovviamente scherzando, altrimenti da domani dovremmo dire, anzi dovrò dire, avevo un sacco di amici gay e non ho molti appunto, amici gay, appunto. Stiamo scherzando, sì, un gioco, un elenco di parole, di epiteti che non si dovrebbero usare. Oh, ok, allora adesso hai che messo... Che poi non si capisce perché uno deve avere così tante parole a disposizione, sono tantissime. Tra l'altro. Allora, come ha anticipato giustamente Beppe, oggi parliamo di un luogo comune abbastanza spinoso, perché è ho molti amici gay, che di solito è la classica, il classico entrée per qualsiasi omofobo, per poi dire le peggio cose sul mondo omosessuale. Altre formule che vengono di solito utilizzate, Alessandro e Beppe, è non ho niente contro i gay, però, perché questa è la classica nota però la classica nota che si utilizza. Eppure, non so, oppure io non ho niente contro i gay, basta che certe cose le facciano a casa loro. Come oppure, se... sai quella cosa del bacio, no? È famosissima. Però quando si baciano in pubblico. No, perché a me danno fastidio anche gli etero che si baciano in pubblico, Cioè, quando uno si bacia in pubblico, però gli etero continuano a baciarsi, nessuno gli dice nulla per strada. Esattamente. E questo è un luogo comune che, tra l'altro, nasconde all'interno non solo l'omofobia nei confronti, appunto, del mondo omosessuale, ma anche un certo maschilismo. Perché sappiamo, ormai è sdoganato la sigla LGBTQI e chi più ne ha più ne metta con un più. Y pa, pa, pa, A E I O. No, Beppe, no, non vale fare la sigletta? Sì, questa non vedevi l'ora di farla. Ecco, esatto. questa se l'era preparata. E per esempio da questo luogo comune ci teneva tutto il mondo lesbico, ad esempio. Quindi è un luogo comune maschilista. È un lavoro infame il nostro, ragazzi. Noi di Off Topic, che trattiamo i luoghi comuni, facciamo un lavoro infame, perché praticamente andiamo a dire delle cose che di solito offendono o che sono un po' spinose. Se le diciamo in radio, come dire, nationwide, si dice così, in tutta la nazione, rischiamo di offendere le persone. Ma noi ovviamente giochiamo con i luoghi comuni, cerchiamo di sfatarli, cerchiamo di, come dire, scardinarli. Ecco, scusa Ale, se qualcuno si sente offeso, noi lo vogliamo dire adesso, abbiamo tanti amici gay. Sì, è vero, abbiamo tanti amici. Sentitevi offesi finché volete, ma... Ecco, ma questo è il problema del luogo comune, perché tu ti assolvi, no? Giustamente, il tuo meccanismo è quello che molte persone utilizzano quando utilizzano questa frase. Cioè, guarda, dato che ho tanti amici gay, sono, come dire, autorizzato, no? A dire quello che voglio, come se, non so, dicessi ho tanti amici di origine africana e posso prendere in giro le, come dire, gli stereotipi sugli africani. Non è sempre vero così, anzi è sbagliato, perché rischi poi di, come dire, non essere inteso nella tua ironia e offendere veramente i cristiani sì, o però non è vero cristiani. Neanche il contrario, cioè non è che solo un nero può fare battute sui neri, è vero, o gli ebrei solo sugli ebrei, cioè dobbiamo un po' scardinare anche questa cosa. In realtà si tratterebbe solamente di essere intelligenti, esatto. Giusto? Cosa che noi non riusciamo a fare, cosa che non siamo, quindi questa trasmissione deraglierà tra un quarto d'ora. To Allora, qui con noi per parlare di questo luogo comune, perché sapete che noi appena ci muoviamo pestiamo delle merde enormi, quindi abbiamo sempre bisogno di un Virgilio che ci conduce all'interno di questi luoghi comuni, abbiamo Giovanni Molaschi, autore televisivo e autore tra l'altro di un libro che è appena uscito che si chiama Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni. Ciao Giovanni, benvenuto a Off Topic. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ciao Giovanni. Allora, il tuo libro tra l'altro parla proprio di storie, non soltanto di persone omoaffettive, perché ormai il termine che viene utilizzato per descrivere relazioni omosessuali è questo, ma persone straordinarie, giusto? Sì, allora, la raccolta che abbiamo fatto insieme ad Agostini prevede appunto questo censimento sulle persone GLBTQIYZ. Tendenzialmente abbiamo deciso che quella che è la loro caratteristica non deve essere poi il fil rouge della loro vita, nel senso che ognuno non può essere ascrivibile al proprio movimento di lenzuola o di affetti. Quindi sono persone che hanno fatto delle grandi cose e sono anche un amico gay di qualcun altro. Ah, ok, ma parliamo anche di personaggi incredibili, perché partiamo da Tiziano Ferro, che è il più contemporaneo forse insieme a Katy Latorre, avvocato per diritti GLBT, fino a Hans Christian Andersen, poi anche Kate Haring, quindi parliamo veramente dello scibile, da Alan Turing persino. Sì, perché poi come i gay sono amici di molti, ma difficilmente sono i miti di tanti, e quindi nessuno sa, o in pochissimi sanno, che la genesi del computer si deve a una persona che era omoaffettiva e che a causa della sua omoaffettività non ha concluso bene i suoi giorni. Scusa Giovanni, mi viene in mente una cosa, cioè si potrebbe fare un gioco un giorno: se noi togliessimo dal commercio qualsiasi cosa in cui ha fatto qualcosa un gay, non useremo più nulla. Questa cosa creerebbe un precedente. Abbiamo la soluzione, ragazzi: come distruggere l'omofobia in una mossa. Tu togli, tipo, non so, togli il computer già. Dici, computer, ragazzi, purtroppo l'ha fatto un omosessuale, non potete usarlo voi omofobi. Fine, via quello. Poi cos'è che dovremmo togliere? Qual è un'altra? Beh, dovremmo togliere tutti, buona parte della produzione della Pixar, perché quello che noi vediamo, l'immaginario che poi ha formato noi, ma in generale le generazioni che sono venute dopo di noi, sono state partorite da due donne che si sono incontrate alla Pixar e da lì hanno iniziato a ragionare sul luogo comune che loro hanno subito in quanto lesbiche, che nessuno raccontava. Quindi hanno detto: se noi non possiamo innamorarci di una principessa, cos'è che possiamo diventare? Possiamo diventare delle macchine, che ci si innamora tra macchine, e quindi è nato Cars. Ah, davvero? Giovanni, io farò un po' l'avvocato del diavolo oggi, quindi concedimelo. Non è che questo luogo comune non è più attivo in Italia? Cioè, si è un po' superata comunque questa... Cioè, abbiamo migliorato sul percorso dell'omofobia? Non è mai stato attivo in Italia, laddove in Italia, rispetto ad altri paesi del mondo, sempre per ricadere nel luogo comune, non c'è mai stata una lobby gay. Nel senso che all'estero si è creato un business attorno alla cosa di diritti, che poi è quello che ha replicato Netflix a portata mondiale su tutte le diversità. Sì. Quindi in America uso questa cosa. Modern Family, uno degli esempi forse più riusciti, tra l'altro. Sì. Lo scorso anno solo il Pride di Milano ha mosso 2 milioni di euro. Ok. Tant'è che il mio libro nasce da una ricerca di mercato, nel senso che io all'editore, a cui auguro lunga vita, mi sono presentato con una ricerca di mercato dicendogli che c'era un vuoto. Quindi quel luogo lì comune in Italia non è mai esistito, perché non si è mai generato una parte economica, che invece negli altri paesi c'è. Perché ho l'impressione che le persone, rispetto alla classe politica o alla classe dei pensatori e influenzatori di pensiero di una certa generazione, un po' conservatori, non faccio nomi, siano due cose ben distinte. Cioè, io mi piace immaginare al popolo italiano come assolutamente flessibile, aperto, dinamico a qualsiasi tipo di categoria di persone, che poi questa puntata in realtà vorrebbe sfatare le categorie, no? E dall'altra parte invece il mondo politico, perché negli ultimi anni, fino alla Cirinnà e attorno alla Cirinnà, si era come dire, l'hype attorno alla tematica dei diritti per le coppie omosessuali si era alzato tantissimo. Ma io ogni volta che vedevo un politico in televisione che diceva una cosa estremamente conservatrice o retrograda, se voglio usare un termine un po' più forte, mi dicevo sempre, secondo me gli italiani sono meglio di quello che vedo in televisione. Tu come la pensi? In Italia le domande ce le si fa solo su Twitter, nel senso che poi usciti dai social network la vita è un'altra cosa. Quindi molte persone hanno molti amici gay che hanno anche molti figli e che vivono senza problemi. In Italia le persone omosessuali non sono comparse negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20, c'è una storia. Appunto. Addirittura non viene menzionata nel libro, però è un dato che, come dire, ci tengo a portarvi. In campagna c'è una donna che proteggeva i femminielli perché erano così, come dire, particolari, che dovevano essere protetti come gli albini in Africa, per dire, ok? Quindi in Italia quando tu vedi il dibattito fa molto ridere, perché poi molti di questi politici, nei salotti romani, frequentano coppie gay con una nonchalance. Sì, però poi dicono le peggio bestialità in televisione, prendendo delle parti, ostacolando l'acquisizione di diritti da parte di certe categorie. Quindi tu dici, ma allora c'è dell'ipocrisia, no? In tutto questo. Ma perché quello fa gioco ai media. Ecco. Nel senso che l'odio è un business in Italia. Quindi nel momento in cui un mass media, lo dico anche da persona operante e responsabile del mezzo, viene, circola, fa bene all'audience, fa bene alle vendite, fa bene a tutto, e quindi non si blocca. Perché non si blocca? Perché non c'è una controproposta. Cioè, se tu crei un conflitto fa sicuramente molti più ascolti e più attenzione rispetto a un consesso pacifico molto democratico nella quale nessuno è bianco e nero, ma tutti sono un po' grigi. Se facessimo un talk show in cui tutti, bene o male, stanno appoggiati sulle sfumature, non lo guarderebbe nessuno. Ma si riesce a uscire da questo meccanismo sempre conflittuale o no? Dato che tu sei anche un autore televisivo e quindi di questo ne sai. Ma bisognerebbe studiare, nel senso che quando io ho presentato la raccolta all'editore, e adesso comincio a parlarne un po' in giro, molte persone rimangono stupefatte dei nomi scelti, perché quando si parla di un gay in Italia si parla di Alessandro Magno. Capisci bene che nel frattempo due robe sono successe. Scusami, mi viene in mente quella puntata di Boris, grande vecchia serie TV, ormai sono passati 10 anni dall'uscita di Boris, però rimane immortale, nella quale un produttore di rete dice a René Ferretti, il regista protagonista della serie: guardi, sono ancora spinose in Italia le guerre puniche, quindi si figuri fare una serie TV su Machiavelli. Quindi è proprio così. Non ti cito per educazione, come dire, chi ha detto questo commento, ma leggendo il libro una persona molto importante mi ha detto: ah, un libro contemporaneo, c'è Andersen, che credo che siano 400 anni che non opera. Ottimo, ottimo. Quanti anni aveva la persona che ti ha fatto questo commento? Ma neanche tanti, nel senso che tipo una quarantina, 40-50, perché sai, adesso facciamo un luogo comune. In Italia il gay si riconosce in Raffaella Carrà, che ha... No, ma ancora? Ma cioè, Raffaella Carrà c'era quando io ancora non sapevo camminare. Ah, pensavo quando tu non sapevi di essere ancora gay, pensavo facessi coming out in diretta. Ragazzi, però è vero, se la metti in discoteca, secondo me, come dire... Sì, alla fine si balla, però la balliamo appunto, anche noi dietro. Cioè, questo è uno stereotipo, il luogo comune. Sì, no, ma ragazzi, ma Raffaella Carrà è un'immagine di 6 secoli fa. Siamo ancora legati no, a questo. No, Longoni, se metti la Carrà in discoteca ancora la gente salta. Vabbè, sì, no, certo, sicuramente in discoteca la ballo pure io, ci mancherebbe la Carrà, voglio dire, è un'istituzione, però... Insomma. Beh, ma se tu pensi, se tu fai anche ragioni sulle uscite discografiche degli ultimi anche 2 o 3 anni, non esiste una persona dichiarata o che se la vive bene quella cosa, tant'è che i cantanti che hanno raggiunto un certo successo vanno su ai quotidiani rosa perché c'ha un amico molto, di solito è c'è X con l'amico, certo. Beh, quando non è con la mamma, esatto, è il caso famoso è quello appunto di Tiziano Ferro, che tra l'altro è una tua raccolta. Ma a proposito di cantanti, presunta omofobia o omofobia reale, è uscito da poco sui giornali, ma perché è successo in televisione, questo audio di Povia che ha fatto discutere. Cioè, prendo lo straccio. Quindi poi sono fissato, sono proprio fissatissimo. Io sono un gay mancato, guarda. Vedi qua, passo, mangiapolvere, qua pulisco i cimeli di Sanremo. Vabbè, insomma, dai. No, scusa, hai detto un'altra cretinata, però, Povia, prima. Cosa ho detto? Che passo il mangiapolvere? Io spero solo questo, però qualcuno ha sentito qualche altra cosa. No, vabbè. Che? No, diciamo che sento il delay mancato. Giovanni, tu ti senti offeso da questa uscita di Povia? Ma offeso no, devo dire che mi fa sempre molta, come dire, malinconia immaginare che l'agenda di un programma che viene onda alle 2 del pomeriggio in Italia sia composta da persone che prendi perché comunque sa che l'insulto arriva e di conseguenza esce sul Corriere della Sera, esce sui social. Vedi, anche lì, se ci fossero un po' di persone che sapessero fare meglio le strategie social, non avresti bisogno di avere una viralità becera. Ragazzi, allora, questo audio mi ha fatto venire in mente una cosa. In alcune categorie di lavoro sembra che, quantomeno in Italia, i gay non esistano, Giovanni. Ti pongo questo spunto di riflessione. Sembra che non ci siano gay, per esempio, nel calcio, tranne... Sì, bravo, nel calcio maschile. Tranne invece, come stavi per dire tu, nel calcio femminile, dove la vulgata e luogo comune vuole che siano tutte lesbiche. Come mai questa cosa, Giovanni? Sì, mettiamoci anche che a basket non c'è una donna eterosessuale, sono tutte lesbiche. Ah, pure basket. Anche un altro sport, giusto per... Ma anche i muratori gay non possono esistere, cioè non è una categoria dello spirito il muratore gay, è quello. Ragazzi, è vero che noi siamo un po' i Ghostbuster dei luoghi comuni, ma è dura, Cioè, muoversi con le categorie, obbligati nella gabbia delle categorie, è devastante. Cioè, questa cosa dell'utilizzare sempre le lesbiche, i gay, i giocatori di basket, i giocatori di calcio, cioè, ti annienta veramente i processi mentali, no, Giovanni? Scusate, non sarà che il giorno in cui, anche nel calcio, anche in tutti questi sport, come dire, il giorno in cui si romperà quel cliché, allora poi... Bravo, bravo. Però, ancora di più, il giorno in cui ci sarà, appunto, come dire, il coming out da parte di giocatori di calcio, che saranno tantissimi omosessuali, lo diranno, allora si parlerà, finalmente il coming out. Ma il vero giorno sarà quando non sarà neanche più una notizia. Però prima bisogna fare quel passaggio intermedio, mi sa. No, per carità, se arriva ancora meglio. Giovanni, il punto forse è questo, che alle nuove generazioni, perché noi ormai siamo dei vecchi di merda, come dico sempre, non interessa neanche categorizzare secondo lesbiche, gay, trans o queer. È una cosa oltrepassata, no? Diciamo anche in molte categorie citate prima, nel senso che non c'è un caso di un muratore gay, perché tendenzialmente un muratore non si vede come tale. Si vede come un uomo chiama una donna. È comodo per alcune categorie di lavoro porre il proprio privato come modello di business. Ci sono persone che hanno fatto business con la propria famiglia, ci sono persone che fanno business ponendo l'accento sul fatto che amano uomini o donne. E forse questo luogo comune poggia, vi propongo un sillogismo, sulla virilità. Allora, ho coniato questo sillogismo stanotte. Seguitemi bene. Che non avevi niente da fare, giusto? Come sempre del resto. Oh, allora, okay. I gay spezzano i polsi. Spezzare i polsi è un gesto femminile. No, va bene. Vabbè, le donne sono deboli. Ma questo è falsissimo. E quindi i gay, spezzando i polsi, sono deboli. Questo, diciamo, è quello che pensa l'omofobo medio. Ok? Sì, diciamo. Sì. Però il peggior pensatore pensa queste cose. Bravissimo. Però io spezzo i polsi. Quindi mi sono chiesto ieri sera, io agli occhi di un gay sono una donna. O forse sei un gay con cui ci può provare. No, aspetta Beppe, ma perché tu invece di fare questi sillogismi non dormi? Che forse è meglio, no? Perché mi sono accorto, ragazzi, che spezzo i polsi. Cioè io mentre parlo molto spesso spezzo i polsi. E dei miei amici gay, perché ho veramente degli amici gay, me l'hanno fatto notare. Ma nessuno ti sta giudicando, chi se ne frega? Sei una donna in lockdown, visto la barba. molto bello, mi piace molto. Sì, a te Giovanni, in questa cosa che ha detto anche Beppe e in tutti questi luoghi comuni che stiamo tirando fuori, dà più fastidio l'intento omofobo o dall'altra parte il politicamente corretto di chi cerca di non usarli? Ma devo dire che è una bella gara, nel senso che a me fa sempre molto ridere quando anche in ambiti lavorativi esce l'amico gay che è il protetto tendenzialmente da una donna che ha superato i 50 anni. Cioè? Che significa? È tinta con un biondo brutto, ok? Sì. E che tendenzialmente va in Turchia a leggere delle cose che non esistono. Questo qua è il ritratto di delle persone che hanno molti amici gay. E mi fa molto ridere laddove io vorrei lavorare della mia, cioè quando sono in una riunione di lavoro, quando sono con le persone, vorrei portare quello che o so o quello che posso dare a livello di business. Devo dire che in questi anni è capitato e capita ancora oggi un po' latente quella cosa lì, però diciamo che lo stratagemma che ho messo io in atto è evitare di sentirlo e porre davanti il mio lavoro. Certo, chiaro. E andare avanti in quello, quindi nel senso che aggiorno il profilo di LinkedIn ogni volta che mi solleticano sul punto di vista privato. Ah, carino questo, cioè utilizzi il mezzo che di solito è usato per il livello professionale per aggiornare il tuo stato sentimentale o comunque personale. Faccio altro. Certo, abbiamo parlato prima della politica. Alessandro ha aperto questo capitolo, no? del mondo politico. È rimasto nella storia forse della politica internazionale un discorso che ha fatto Cameron, ex premier inglese, poi dimessosi per la questione della Brexit, che da buon conservatore ha fatto un ragionamento, altro che i sillogismi di Beppe Salmetti, ha fatto un ragionamento che non fa una piega, sentiamolo. I'm in favor of gay marriage because I'm a massive supporter of marriage and I don't want gay people to be excluded from a great institution. Allora, giusto perché sono un conservatore, dice, io voglio il matrimonio omosessuale perché è la cosa più normativa che si possa pensare. Non fa una piega questo discorso. Sì, poi anche lì a me fa sempre molto ridere che ognuno si porta a casa la propria battaglia, no? Quindi il matrimonio per tutti è una battaglia di sinistra, a un certo punto i conservatori dicono no, però è anche un po' nostra. Tendenzialmente dovrebbe essere un passaggio fisiologico che arrivano. In questo momento arriviamo da dei mesi abbastanza complicati. Nei reparti di Covid non c'erano solo le persone eterosessuali, ok? Nessuno ha raccontato le storie delle persone che hanno a casa un individuo del proprio stesso genere ad aspettarli. È stato escluso dall'immaginario. Però per un calcolo di probabilità, l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, certifica attorno al 10% di persone omosessuali nel mondo. Quindi comunque qualcuno, anche per sbaglio, ci sarà. Il fatto che il racconto sia sempre... virato in quel senso è singolare perché non ti viene neanche in mente di rappresentarlo. È come diciamo che sulla parte di racconto omoaffettivo va fatto lo stesso sdoganamento che è avvenuto per le taglie delle donne. Siamo passati dalla 38 alla 56. In questo momento noi, quando parliamo di affettività, stiamo ancora vedendo la 38. Sì. Dobbiamo arrivare alla 56. Sì, questa cosa ricorda un po' anche le famiglie, no? Quando pensano di distribuire dei fondi, molto spesso la famiglia, no? Forse perché magari giustamente sono anche numericamente più individui, si pensa alla famiglia, non magari a un single che è a casa, che comunque ha altrettanto bisogno di sussistenza, ma la famiglia è più importante. Sì, lì poi c'è anche il luogo comune che i gay generano profitto e quindi non vengono mai previsti dai sussidi, no? Perché è una cosa. Dici che viene detto che sono già privilegiati, quindi perché dagli altri privilegi? Questo è il meccanismo malato che si innesta, dici? Sì, perché tendenzialmente diciamo che in questo momento la genitorialità in Italia è complicata. Le adozioni sono chiuse. Quindi diciamo che è complicato anche per una persona che vuole fare quel cammino lì, intraprendere un percorso normale. Sì. È vero che innegabilmente per le donne la fecondazione assistita, per gli uomini l'aiuto di una maternità surrogata costa tanto, e quindi da lì, come dire, uno più uno è vabbè, ma tanto loro c'hanno i soldi. Chiaro. Gente che si sono fatti i mutui per farsi le famiglie. Chiaro. Certo. Sì, perché dopo costa molto la fecondazione assistita. Giovanni, in conclusione, ci dici per favore un personaggio che ti è piaciuto particolarmente? Tu in questo libro fai 12 storie di 12 persone che sono affiancate anche delle storie collaterali, di eredità, diciamo, in qualche modo, della storia principale. Una in particolare, velocemente, che ti ha colpito e che non sapevi neanche tu nel momento in cui ti sei messo a scrivere il libro. Mi piace molto Kate Haring, perché Kate Haring è l'emblema del luogo comune che gira sui gay, perché è stato molto pop. Viene riconosciuto come l'omino che ha fatto dei disegni divertenti sugli orologi. In realtà Kate Haring, quando non disegnava per i grandi magnati americani, andava in giro per l'Europa a dipingere negli ospedali infantili. Ad esempio di Parigi ce ne sono ancora alcuni lavori bellissimi, perché per lui l'arte aveva un senso politico e doveva essere portata a tutti. Cioè, lui comunque da quando è morto nessuno ha posto l'accento sul fatto che era un artista politico. È stato sempre visto come, è sempre stato visto solo come l'amico gay. O anche un artista pop di facile lettura. Allora, ricordiamo, il libro di Giovanni è Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni, 12 storie incredibili, ve lo assicuro, io l'ho letto e sono rimasto stupito, per esempio, nello scoprire che Andersen era dislessico. Io non lo sapevo, che non c'entra niente con l'omosessualità, però insomma, almeno si scoprono dei lati inaspettati dei personaggi che ha tratteggiato Giovanni. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato off topic, grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie Giovanni. Ciao Giovanni. Bravo Riccardo, hai fatto bene a ricordare questa cosa, che hai capito una storia, perché non basta leggere, bisogna anche capire. Capire, è vero. Volevo concludere questa puntata, se me lo permettete, con una frase che mi è piaciuta particolarmente dal libro di Giovanni e riguarda un ex comandante dell'esercito statunitense, tale Matlovich, soldato americano, il primo ad essere stato immortalato sulla copertina del Time nel 75 con una scritta sotto "Io sono gay". E per questo motivo allontanato dall'esercito degli Stati Uniti. E la frase che mi ha colpito è stata: quando ero in esercito mi hanno dato una medaglia per aver ucciso due uomini e mi hanno licenziato per averne amato uno. Dovrebbe essere il contrario. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. We'll be right back.